5 L. Ascolta e continua. Vai al cinema, ma vacci domani. Vai a teatro, ma... Vacci domani. Vai in banca, ma vacci subito, non andarci domani. Vai in farmacia, ma... Vacci subito, non andarci domani.